piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Beh, devo dire che sono piacevolmente e mirabilmente sorpreso. Era un po' una sfida, non pensavo che poi la gente aderisse in maniera così massiccia, però io mi sto divertendo tantissimo. Da dove comincia tutto? Da un'idea che ci è venuta, che Radio 24 ha sposato, ha fatta sua, di cominciare a chiedere ai nostri ascoltatori casomai avessero in casa degli oggetti fuori dall'ordinario. Oggetti fuori dall'ordinario significa degli oggetti che mai ci si passa di generazione in generazione, non sempre se ne conoscono le origini precise, molte volte si conoscono, sono legate a vicende familiari, racconti di rami perduti della famiglia, o sono carichi di una storia condivisa che fa parte stessa del vincolo di sangue che tiene insieme le persone di una famiglia. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché noi stiamo portando gran parte delle nostre speranze di ridare una dignità di vita e di inclusione professionale a ragazzi con cervelli diversi, diciamolo così, e per farlo dobbiamo allestire un loro atelier. E siccome l'atelier l'abbiamo comprato, ma per allestirlo ci servono i mezzi, dobbiamo farlo in maniera pulita e trasparente. Abbiamo detto facciamo un'asta di oggetti strani e abbiamo chiamato chiaramente a raccolta tra i più grandi collezionisti del nostro paese, che hanno persone che hanno Wunderkammer, camere delle meraviglie, o collezionano cose stranissime, dinosauri, tute da astronauta. Loro metteranno i loro oggetti all'asta, avranno il giusto ricavo dall'asta, quello che loro si aspettano comunque di avere. Una percentuale di questo ricavo, quello che spetterebbe alla casa d'aste, sarà dato per dare consistenza concreta a questo progetto. Poi abbiamo pensato, ma perché non allarghiamo al pubblico della radio? Perché non cominciamo a fare questa sfida di raccontare alla radio storie di oggetti legate a delle famiglie? Abbiamo iniziato questa nostra iniziativa fuori dall'ordinario, abbiamo fatto un sito asta.cervelliribelli.it e chi vuole può mandare la foto dell'oggetto straordinario che vuole mettere all'asta. Sia chiaro, anche voi ascoltatori avete diritto di esprimere la vostra base d'aste e quello che si otterrà sarà totalmente vostro. Però chiaramente non possiamo prendere di tutto, ci saranno degli esperti della casa d'aste Cambi, che è la casa d'aste che il 2 aprile presenterà questa grande asta, sarà tenuta a Milano, a Brera, nella loro sede milanese. Il 7 aprile sarà battuta l'asta, forse io stesso farò il banditore, vestirò da banditore d'asta. E metteremo all'asta questi oggetti straordinari, tra cui ci saranno anche alcuni oggetti presi dalle case dei nostri ascoltatori. Saranno selezionati da degli esperti della casa d'aste Cambi e saranno messi all'asta. Ora mi sono molto divertito che all'inizio la tendenza degli ascoltatori era a considerarci una sorta di rigattieri. Ci davano delle cose vecchie che avevano in casa, da cui probabilmente volevano sbarazzarsi. Abbiamo sentito alcune storie anche divertenti, ricordo la storia di un piatto che aveva un suo gemello in cui hanno rappresentato una donna che cacciava e una donna che pescava. Poi la famiglia ha litigato, si sono divisi due rami di famiglia, due fratelli si sono accapigliati, è rimasto soltanto uno dei due piatti, la donna pescatrice. Una donna che va a pesca con la canna da pesca, molto strano perché è una ceramica, mi sembra, del XVI secolo, quindi è singolare una donna che va a pesca, però questo già aveva un senso. Poi la foto dell'astronauta, di Yuri Gagarin, accoltellata da un sovranista che non tollerava questo ricordo del passato sovietico, del socialismo reale, e poi tante altre cose. E via via là si sta affinando anche l'offerta ai nostri ascoltatori. Oggi vi raccontiamo un altro po' di oggetti che ci avete mandato, chiedendovi di mandare ancora oggetti. Trovate quello che avete a casa di straordinario, di strano, di singolare. Innanzitutto noi raccontiamo la sua storia e lo celebriamo, poi se volete vendervelo lo mettete all'asta e buon per voi. Jacopo Briano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Allora, Jacopo Briano è uno dei nostri esperti, è un gallerista esperto della Casa d'Aste Cambi, che fa parte dell'equipe che segue e valuta, studia, analizza gli oggetti che ci mandano gli ascoltatori. Com'è stata la raccolta questa settimana? Dal tuo punto di vista, tu vedi tutti gli oggetti che mandano gli ascoltatori? Beh sì, allora noi qua giornalmente riceviamo degli upload sul sito e devo dire che c'è un po' sempre il rischio rigattiere, come hai evidenziato te, ma sta aumentando la qualità sicuramente degli oggetti. Abbiamo ricevuto veramente degli oggetti molto interessanti. Ecco, ripeto, alcuni magari meno, ma alcuni veramente. Possiamo stabilire già, tanto per dare un po' di incentivo ai nostri ascoltatori, in media, rispetto, che ne so, ogni 10 oggetti che arrivano, ce ne sta uno che potrebbe avere dignità di essere messo all'asta? Sì, potremmo, ecco, hai individuato veramente la quantità giusta. Perché sto seguendo anch'io. Un 10%. Esattamente. Ecco, vogliamo dire anche poche caratteristiche devono avere questi oggetti, anche per farlo capire meglio, perché ci mandano le sedie sfondate che vanno in cantina, quelle hanno un valore se hanno un valore di antiquariato vero, ma non sono oggetti ribelli. L'oggetto ribelle è un oggetto con la sua stranezza, nasce già legato a qualcosa che è fuori contesto o è singolare o è stato concepito da persone con cervelli strani. Dammi qualche parametro per far capire agli ascoltatori cosa devono mandarci. Ma esattamente, proprio questo, cioè l'oggetto banalmente antico non ha alcun interesse per un'asta di questo tipo. L'oggetto deve essere particolare. Noi cerchiamo o qualcosa che sia legato a una storia importante. Adesso abbiamo lanciato il tema della conquista della Luna o comunque dei grandi momenti storici. Oppure che l'oggetto. Perché saranno messe all'asta delle tute spaziali vere e proprie, mi sembra, già sono arrivate da dei collezionisti. Sì, c'è una tuta spaziale sovietica che ha realmente viaggiato nello spazio, che sarà proprio inserita nell'asta. Questo è già confermato. E quindi lì. Qual è la base d'asta per una tuta spaziale? Solo per capire, per darmi un'idea di parametro, quale potrebbe essere, indicativamente? Allora, è un oggetto molto raro, quindi abbiamo avuto difficoltà a trovare dei termini di paragone, però si pensava tra i 40 e i 60 mila euro potrebbe essere la stima corretta per questo oggetto. E di solito quanto sale, se bravo il banditore, potrei essere anche io, l'oggetto dalla base d'asta alla cifra che poi viene battuta? Guarda, negli anni abbiamo visto qualsiasi cosa, perché l'asta è un momento magico, un momento di competizione, un momento in cui l'acquirente a volte perde anche un po' il freno inibitorio. Noi stessi come galleristi, come professionisti del settore, a volte ci ritroviamo nelle aste a offrire molto di più di quanto avevamo inizialmente preventivato. Io ho visto oggetti andare a 3, 4, 5, 10 volte la stima iniziale. Perché si crea un antagonismo fra le persone, cioè allora non te la do vinta, me la prendo io. Assolutamente, diventa proprio una competizione di questo tipo, piuttosto che fartela avere a te, la strapago. E è un momento emozionante l'asta, proprio coinvolgente dal punto di vista emotivo. Allora, cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Ne abbiamo selezionato un certo numero, l'ha selezionato per noi Jacopo Briano e l'equipe della Casa d'Aste Cambi, e vediamo se già in tema con quello che abbiamo in questo momento rivelato, ci sono già una tuta spaziale sovietica che realmente è stata nello spazio. Sentiamo Nicoletta Barenghi, buongiorno, cosa ha da proporci? Buongiorno dottor Nicoletti, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Io ho il mio ricordo dello sbarco sulla Luna, che è la fotografia dei tre astronauti firmata da tutte e tre, e più un bigliettino di ringraziamento successivo firmato da Neil Armstrong. E la storia è che io avevo 10 anni nel 69 e volevo scrivere agli astronauti per ricevere un pezzettino di Luna. Ecco, fermo un attimo, ricorda il clima di allora, nel 69, per un bambino sognatore la conquista della Luna era uno degli orizzonti più indicibili. Sì, io mi sono guardata tutta la trasmissione della notte dello sbarco, mi ricordo i film che hanno trasmesso, tutto mi ricordo. E niente, e quindi io ho... E tu hai scritto alla NASA? Io ho scritto alla NASA questa letterina, però ho allegato... Cioè, ma l'indirizzo che te l'ha dato, l'indirizzo della NASA? Perché... quello l'hanno trovato i miei genitori. Adesso ma quindi ha avuto l'appoggio familiare? Sì, perché a Monte, siccome mio padre era un grafico pubblicitario, aveva fatto un calendario che si da dare ai suoi clienti all'inizio dell'anno del 69, dedicato proprio alle missioni spaziali, dove c'era raffigurata una piantina della Luna, con la tranquillità, le alture, tutto quanto, e poi schizzato un omino a braccia larghe che girava intorno alla Luna come un aquilone, che aveva la barba perché rappresentava lui, legato con una corda che arrivava giù in basso, dove c'era una bambina con la coda di cavallo che lo teneva, cioè aveva il suo aquilone che girava intorno alla Luna. A cui tuo padre aveva fatto un calendario, sì, sapendo la passione della bambina, singolare, perché le bambine in quell'epoca di solito giocavano con le Barbie, non si pensavano agli astronauti, quindi erano già una bambina. Volevo fare l'astronauta. Però vedi che... Il seme del cervello ribelle c'è in te che hai telefonato. Te hai anticipato quello che oggi è Astro Samantha, questa idea. Esatto. Nel 69, in cui le bambine ancora, in quell'anno, in cui ancora diciamo l'eco del 68 nemmeno era arrivato in tutta Italia. Sognavano le brave massaie, facevano regalare le cucine, pettinavano le bambole e non pensavano altro. Quindi la nostra Nicoletta già sognava di essere astronauta. Esatto. E quindi cos'è successo? Tu hai mandato questa lettera? Ho mandato questo tubo con dentro il calendario e la mia letterina e l'avevo spedita, adesso ho anche il tagliandino della spedizione, quindi l'avevo spedita il 10 luglio e a breve mi è arrivata la fotografia dei tre astronauti con dietro la Luna firmata da tutte e tre. E poi spedita il 30 agosto mi è arrivato un bigliettino di ringraziamento firmato da Neil Armstrong, che mi ringraziava per l'interesse ma soprattutto per l'intelligente calendario. Quindi tu metteresti all'asta cosa? La lettera, la foto firmata dai tre astronauti, che sì, potrebbe anche essere diciamo un gadget standard che davano a tutti, però qua c'è la lettera indirizzata a te proprio, che ti ringrazia per il calendario. Sì, ho tutti i plicchi anche della... Una copia anche del calendario di tuo padre? Cioè, per completare il kit. Allora, il calendario di non riesco a trovarlo nei vari traslochi. Ho ancora due o tre posti dove andare a cercarlo e ci riprovo. E tuo padre non potrebbe peccato in qualche maniera... No, mio padre non c'è più. Ah, non c'è più, se no... Io mi ricordo com'è, ma mi ricordo esattamente com'è. Potrei tentare di... almeno di farlo schizzo, ecco, in modo che si capisca. Vabbè, però c'è una storia dietro, c'è una storia di famiglia, c'è un padre creativo, in un momento in cui la creatività italiana aveva un bel mercato e stava facendosi conoscere in tutto il mondo, c'è la corsa alla Luna, che è un dato di fatto storico che appassionava, in questa sorta di match continuo fra Russia e Stati Uniti. Noi abbiamo parlato l'altra volta di Gagarin, questa volta parliamo dei tre astronauti dell'Apollo 11, la squadra intera dell'Apollo 11, tutti e tre firmati, e una piccola circostanza aggiuntiva e additiva che è tutta la corrispondenza che gli astronauti fanno con questa bambina italiana che, completamente fuori degli standard di quegli anni, sognava di fare l'astronauta, hanno un po' intuito. Comunque questo già mi sembra un buon avvio, perché vedo che il settore astronautico viene considerato una sorta di follia, qualcosa che è fuori dalle regole, almeno esula da una sorta di attuale cifra in cui gli orizzonti sono definiti dalla connettività del proprio telefono. Ci fermiamo un istante. Allora, siamo qui a osservare e analizzare quelli che sono gli oggetti straordinari che ci ha segnalato il nostro pubblico, mandandoli al sito asta.cervelliribelli.it. Li stiamo osservando, analizzando assieme a Jacopo Briano, che è un gallerista esperto da Casa d'Aste Cambi, che assieme a un'equipe di esperti analizza quello che voi mandate. Naturalmente anche voi potrete vedere questi oggetti per come sono fatti, sono costituiti. Abbiamo fatto una gallery che galleggia nella pagina Facebook di Radio 24, quindi andate su Facebook, cercate Radio 24, ci sarà la gallery dove vedrete tutti gli oggetti di cui stiamo parlando e di cui parleremo anche nelle puntate future. Abbiamo appena sentito Nicoletta che ci ha raccontato la storia di una foto della squadra dell'Apollo 11 firmata, autografata, che lei bambina della fine anni 60, con aspirazione a fare l'astronauta, poi in realtà ha fatto la restauratrice, voleva in qualche maniera iniziare la sua carriera avendo il suggello e la benedizione di Neil Armstrong e dei suoi colleghi di impresa. Jacopo Brano, come mai è così presente, vedo, l'aspetto spaziale? È già la terza citazione di oggetti che hanno a che fare comunque con la conquista dello spazio. Oggi, a distanza di decenni, è considerata parte delle follie che hanno animato le gioventù passate. Questo è proprio uno degli argomenti che ancora tiene viva la curiosità umana, perché in un momento in cui abbiamo esplorato tutto il nostro paese, tutto il nostro mondo, tutto il nostro pianeta, dove ormai non ci sono quasi più luoghi sconosciuti, lo spazio rimane la grandissima incognita. Allora andiamo a un altro oggetto, questa volta usciamo da costante astronautica, però entriamo in un'altra cosa che è veramente singolare. Ecco, io vedo la foto che ci ha mandato il nostro ascoltatore. È una scarpona gigantesca, è messa a confronto una scarpa, mi sembra di un numero, diciamo, umanamente comune, potrebbe essere il 43-44, beh, tre volte tanto. Giordano Guerrini, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, questa scarpa che lei ci propone, mi racconti la storia, è uno scarpone gigantesco, fatto, penso, su misura di un piede sproporzionato, di un gigante. Beh, in effetti, Primo Carniera... lo chiamavano il gigante che cammina. Comunque, è la scarpa di Primo Carnera, originale? Sì, è proprio sua. Allora le spiego, molto singolare la storia con la quale io sono entrato in, diciamo, è un famoso pugile italiano, famosissimo, sì, fu il primo a aver conquistato, mondo, è il primo campione del mondo, nel 33. Nel 33, una, esatto, storia bellissima, poi diventò, sì, diciamo, parte della propaganda del fascismo, e certo, poi a metà, certo, degli anni 30 poi è uscito fuori, anche morto in povertà, poveraccio, mi pare. Certo, un povero friulano che è nato povero. Nato poverissimo, sì. Ed è riuscito, lavorando prima nei circhi e ad avere questo grande successo, perché dalla storia sembrerebbe che un pugile francese l'abbia allenato, l'ha trovato, insomma gli ha fatto fare questa carriera negli Stati Uniti. La storia della scarpa è molto singolare e bella. Io premetto, sono produttore di calzature, una fabbrica qui a Nerviano, Parabiago, alla zona un po' delle calzature. Diciamo, lei le scarpe è la sua ragione di esistenza. Sì. E in effetti è successo nei primi anni 80 che c'era un mio cliente, allora ottantenne già, che aveva un negozio con laboratorio di scarpe fatte su misura in via San Vittore, angolo via Carducci, lì nella zona dei palazzi ricchi di Milano. E questo si forniva di scarpe non facendo più niente a mano, perché ormai è ottantenne. E io, curiosito da questo negozio, questa bottega, mi chiesi: ma dove le costruiva le scarpe? Fai qui nello scantinato, quei vecchi scantinati di questi grandi palazzi antichi milanesi. Ho detto: posso vedere? E sono sceso in questa cantina. Curioso, io sono sempre stato affascinato dalla storia, specialmente quella che riguarda... Cos'era, un magazzino di vecchi modelli? No, era sotto scala, quei cantinoni tutti in pietra, con le volte milanesi, dei vecchi palazzi del fine 800 milanese. E niente, siamo scesi giù e ho visto i vari attrezzi che lui usava per costruire appunto queste scarpe a mano e le varie forme di tutti i clienti nobili ricchi di Milano. Fra queste mi ha colpito molto una prova su forma di una scarpa gigantesca, 53, oggi è difficile trovare anche... Cioè, quanto è lunga una 53? È il doppio di una 42 praticamente. Ah beh, quasi il doppio, ma vista proprio quella che io ho fotografato per darle l'idea, è un 43 di una scarpa di oggi. Un po' la differenza. È il doppio quasi, sì, Il doppio. È come due piedi uno accanto alla scarpa, sì, di un gigante. Sì, in effetti questo aveva delle mani, la testa, poi era enorme questo... Era 120 kg, ma distribuiti molto. Sì, leggo, bene. Penso, vedendo adesso su Wikipedia la biografia, gli zii, che erano quelli che si occupavano di lui all'inizio dell'allenamento, avevano problemi, i vestiti li adattavano, dice proprio Wikipedia, però per le scarpe era un problema e molte volte cammina scalzo che non si trovavano le scarpe adatte. Perché nei vestiti è molto semplice, sono cartamodelli, certo. Uno si allarga. Nelle scarpe bisogna costruire una forma che lui, come vede, l'ha fatta fare su misura in legno tamponata col suo nome, lo vede a fuoco, sulla forma risulta sua, è perché la scarpa va fatta su una forma, perché anche se fosse mezzo centimetro più corto o meno larga, cioè uno non riesce a camminare, l'abito bene o male un centimetro o due in più uno non se ne accorge, ma nella quindi anche questa scarpa è una bella scarpa, una scarpa, adesso non so come si chiami il modello, è una scarpa, una francesina, una scarpa classica, è anche una scarpa classica elegante, perché sì. Lui solitamente mi diceva in questo momento che lui gli costruiva più che altro scarpe derby con un'allacciatura diversa, perché avendo anche il collo molto alto, questa è una scarpa particolare da sera, doveva sì. Diventare, perché era elegante, e quando lui aveva magari qualche io ho visto questa forma e mi sono affascinato. Che è la scarpa destra, devo dire, ma la sinistra dov'è di questa scarpa? Lui gli ha fatto la prova sulla forma, gli ha messo una suola e gliel'ha data, gliel'ha spedita. Adesso non so se mi ha detto spedito o l'aveva preso una figlia di a Milano. Comunque è andata negli Stati Uniti questa scarpa, dove stava Carter. È andata là e lui gli aveva poi dato la conferma per fare anche l'altra, la compagna. Però questa lui la teneva sempre perché praticamente era il cartamodello sul quale lui aveva... lui ha fatto un paio di scarpe per Carnera, gliela ha mandata una, dice tu infilati questa, se ti va bene questa, io l'altra la uso come modello. E ha tenuto la base e la forma, certo, perché tutto ogni questo qualvolta in epoca in epoca era pre-Amazon, nel senso che attualmente ci metteva una settimana arrivare in America, forse anche più, che ne so. Certo, però là sicuramente una scarpa del genere non la poteva trovare, solo in Italia, specialmente a Napoli, facevano questo tipo di cose fatte a mano per piedi speciali. E questo metodo qua invece lui era specializzato, conosciuto in tutta Milano, perché chi non solo chi aveva problemi di piedi per la misura, ma chi voleva, i ricchi di Milano volevano scarpe particolari, con pellami in pecari, con pellami pregiati, morbide, e questi c'erano due o tre a Milano specializzati in questo tipo di lavoro fatto a mano, già prima che esistessero le nostre fabbriche qui a Parabiago, per dire, cioè Fratelli Rosetti non esistiva ancora. Allora, quindi lei metterebbe all'asta la scarpa di Primo Carnera? Gliel'ho acquistato e ho detto, senti, dammela, ho insistito, gli ho regalato. C'è anche la forma dentro, marcata Carnera. C'è la sua forma tamponata a fuoco con sul nome Primo Carnera, con la forma dei primi 900. È completa di forma, con su questa tomaia in capretto, pronta per essere poi riconfermata per fare un altro paio in altri materiali. Sarebbe interessante cercare fare una ricerca d'archivio fotografico, vedere che tipo di scarpe mette a Carnera, casomai si vedesse anche questo tipo qua di scarpa. Questa sarebbe una cosa interessante, una ricerca iconografica. Jacopo Briano, come può essere contestualizzato? È un oggetto strano, Carnera già è un esempio stranissimo. Oggetto sicuramente straordinario, questo è un oggetto. Io penso gli appassionati di pugilato cosa darebbero per avere una scarpa di Carnera, capito? Ma in realtà non soltanto meramente uno specialista o un appassionato di pugilato, perché qua stiamo parlando di una figura conosciuta sicuramente in tutta Italia. Ma in tutto il mondo è stato un episodio. Tutto il mondo, esattamente. E poi veramente questa idea di poter avere un oggetto quasi che apparteneva al corpo del personaggio famoso. È quasi una reliquia, diciamo, oggi si direbbe una reliquia per contatto. Esattamente, una reliquia laica del mondo dello sport, ma del mondo in generale della cultura in questo caso. Un personaggio veramente importantissimo della storia del nostro paese e del mondo del pugilato. Quindi sicuramente un oggetto out of the ordinary. Ecco, io adesso vedo una foto su Wikipedia di Primo Carnera, ospite al Musichiere nel 1958. E mi sembra, non vorrei, andrebbe allargata la foto, comunque ha un tipo di scarpa come quella che appunto mette all'asta il nostro amico Giordano Guerrini. È quasi sicuro sono delle scarpe di questo tipo, se non è esattamente quella, comunque è il modello di scarpe. Qua si era messo un vestito elegante perché andava ospite nella televisione italiana negli anni in cui la televisione italiana nasce nel 54, nel 58 era il top comunque della rappresentazione del nostro essere risorti da una guerra, il musichiere, il programma appunto che gli italiani guardavano come questa meraviglia del teatro che entrava in casa. C'è questa foto di Carnera davanti a un microfono con un taglio di luce che illumina soltanto la parte alta, con queste mani gigantesche, e devo dire, la sottoporrò al signor Giordano Guerrini, la scarpa che indossa mi sembra proprio il modello della scarpa che metteremo all'asta, nell'asta dei cervelli ribelli. Tra un istante. Ti sei mai chiesto cosa prova un campione quando vince e uno scienziato quando rende possibile l'impossibile? Si divertono, perché il segreto per superarsi è passione e divertimento. Nuova Kona Hybrid. Hybrid and fun. L'ibrido non è mai stato così divertente grazie alla tecnologia Hyundai Hybrid e al cambio a doppia frizione. Solo a febbraio tua da 199 euro al mese con interessi zero e extra bonus Hybrid. TAN 0, TAEG 1 e 10. Anche sabato e domenica. Annuncio promozionale, info e condizioni su Hyundai.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Andiamo subito all'ascoltatore Guido Bianchi. Guido Bianchi, buongiorno. Buongiorno. Lei metta all'asta una bottiglia. È una bottiglia, è una reliquia laica anche questa. Questa bottiglia rappresenta mio nonno e per mio padre suo padre, che nel 1918, per festeggiare la fine della guerra, comprò una bottiglia di Strega. Di Strega. Noto lo Strega, liquore noto perché c'è un premio Strega, premio letterario, certo. Tutti gli anni viene celebrato. Quel liquore giallo, che in tutti questi anni è diventato marrone e si è consumato senza la bottiglia. Ma questa bottiglia quindi è chiusa dal 1918? 18. Perché lui l'ha comprata per festeggiare ma non l'ha mai aperta? Perché è morto di spagnola, lasciando un figlio di 4 anni, e per mio padre quella bottiglia rappresentato fino a che è stato vivo. Guardi, ha dei riferimenti molto contemporanei. Oggi, sì, a proposito del coronavirus, si parla di un livello di epidemia come quello della spagnola, che è del 2%, che ha raso al suolo l'Europa, la spagnola, non il mondo, ha abbassato 12 anni la speranza di vita dei cittadini del mondo. Pensate che è stata. Quindi suo nonno, poverino, ha comprato questa bottiglia di Strega. Festeggiamo la fine della guerra. La spagnola, che proprio inizia, durata 2-3 anni, ma sono stati anni terribili proprio in quegli anni, la falcidiata. È morto di spagnola. E ve la siete tenuti in casa tutti questi anni? Sì, mio padre l'ha tenuta proprio, aveva 4 anni, è stata l'unico ricordo aveva di suo padre. E per noi è stata una reliquia laica, come dicevo prima. Allora, sentite un attimo, Jacopo Briano, in questo caso sono oggetti mettibili all'asta? Perché questa bottiglia vale per il suo contenuto sigillato, c'è una storia. No, ecco, esattamente. Qua abbiamo davanti un oggetto che ha una storia che è meramente intima, meramente legata all'esperienza di una famiglia. Non riesce, nonostante sia legata a un momento storico importantissimo, non riesce a diventare un oggetto che possa essere inserito in un'asta di questo tipo. Fra l'altro ricordo così bello, nel senso, il povero nonno che voleva festeggiare la guerra e poi è morto di spagnola e la bottiglia è rimasta lì. Il valore all'asta è un valore irrisorio che non rispetterebbe in alcun modo invece il valore emotivo. Passiamo a un altro ascoltatore che ha un oggetto molto singolare e strano. Se ve lo facessi vedere non capireste cos'è. Sembra un po', non so, una canna da pesca un po' grossa o il puntale di un albero di Natale, ma molto particolare. Stefano Viberti, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Stefano Viberti, e cos'è questo oggetto che lei mette all'asta? Anche io per lungo tempo non sapevo. Non aveva capito di cosa fosse? No. Allora, quanto è lungo? Più o meno siamo sui 40 centimetri, 45. 40 centimetri, diciamo, è una specie di carotoda, di cos'è? Di legno, di canna, cos'è? Poi ho scoperto essere fatta di una zucca, diciamo. Una zucca molto fina, che comincia bella grossa, avrà un diametro alla base di quanto? 5-6 centimetri più o meno. Anche un po' più forse, da occhio c'ho davanti. Sì. Beh, un bel diametro, bello grosso, diciamo, è come una bottiglietta di acqua minerale, diciamo di plastica alla base, sale su per una cinquantina di centimetri, ha detto lei? Sì. E va a finire sempre, la parte apicale è a punta. È di legno, bel di legno, di zucca disseccata, bello, alla base cavo, no? Sì. Come per introdurci, vuoto, per introdurci qualcosa. E qualcosa ci si introduce in questo affare, perché? Di cosa si tratta? È una astuccio penico utilizzato, credo ancora oggi, dalle popolazioni della Papua Nuova Guinea. Popolazioni indigene della Papuasia, della Nuova Guinea, usano camminare in mezzo alla foresta con l'unica protezione addosso, infilano il pisello dentro questo astuccio, almeno non si fanno male alle parti molli, però cioè, è come avere sempre davanti questa sorta di lancia in resta, perché logicamente l'astuccio svetta l'altezza del naso della persona che lo indossa. Sì, poi in realtà ho fatto delle ricerche, allora questo oggetto qui è stato regalato alla mia famiglia quando ero bambino negli anni 80. E come è arrivato a casa sua l'astuccio penico? Un amico di famiglia che era andato con i missionari a fare un viaggio lavoro. Quando è tornato aveva portato in regalo questo oggetto. Ma voi bambini dicevano di cosa si trattava? Figuriamoci quanto ci ridevate sopra. No, io in realtà non me lo ricordavo neanche, poi questo oggetto è stato un po' dimenticato, è stato rispolverato recentemente e ho fatto una ricerca e insomma è venuto fuori che appunto era un astuccio penico. E tra posso l'altro dire, può anche non rispondermi, perché è una domanda che rientra nella sfera intima e privata. L'ha mai provata a indossare per vedere l'effetto che fa? No. Anche perché io avrei paura, perché cioè, potrebbe creare delle fratture nel caso... ci vuole un po' di dunque. Io vedo, però, mi hanno segnalato che questi astucci penici esattamente identico al suo sono entrati nelle cronache anche recenti, quella del 20 gennaio 2020. C'è stato un processo, non so bene adesso per quale ragione, in cui erano diciamo stati chiamati dal tribunale due indigeni della Papuasia. Questi sono entrati in tribunale con i loro tatuaggi tribali, con le loro acconciature, con vestiti, tutti nudi, con l'astuccio penico. Sì, esatto. Ce l'ha presente, l'ha visto anche lei, la storia la conosce? So che non sono stati accettati. Sì, il giudice l'ha fatto, oltraggio alla corte, sono entrati tutti nudi con questo attrezzo di mezzo metro davanti, che è anche minaccioso, come un uomo con un punteruolo che gli parte dall'inguine e gli arriva fino a mezza faccia. E poi stanno sempre su, non stanno mai giù, cioè non si capisce come. O diciamo, la parte anatomica che li sorregge è sempre in quella posizione, beati loro, o altrimenti hanno, non so, un artificio per cui... Ma ha capito com'è sta roba che stanno sempre dritti, no? E io credo che se lo leghino al collo. Ecco, c'è il trucco, sì, per questo. Sì, cioè, no, che ne so, pensavo, dico, stanno sempre legati al collo. Sì. Beh, e lei questo oggetto sarebbe disposto a metterlo all'asta? Certo, sì. E dovrebbe essere tra l'altro un non di uso quotidiano, nel senso che facendo una ricerca... È di uso cerimoniale esatto, questo. Esatto, per quello le dimensioni sono un po' esagerate. L'idea... Anche perché muoversi nella foresta con una cosa così grossa, ecco, penso Dipende che animali si va a cacciare, non lo so, dipende da quello. Allora, Jacopo Briano, l'astuccio penico è singolare, divertente, cioè alle nostre latitudini fa sorridere, magari là è un oggetto comune, lo usano per girare il minestrone e le massaie. Avrebbe senso la nostra asta? Sì, certamente è un oggetto che merita di essere inserito in un'asta dell'Out of the Ordinary, nonostante sia un oggetto che nelle collezioni di arte tribale è presente. Ma c'è un'altra cosa, io lo allegherei, nel caso si decidesse metterlo all'asta, con le foto di questo famoso irruzione in tribunale, che sono delle foto recenti, appartengono alla cronaca, lo attualizzano. Questi due indigeni della Papuasia che entrano, uno con il pugno chiuso, in un gesto di protesta, di rivolta contro questo tribunale, probabilmente di cui non riconosco la legittimità, tutti nudi, con l'astuccio penico, e il particolare però ai piedi hanno delle ciabatte infradito di gomma, perché nudi, con l'astuccio penico, a chiappe scoperte, poi ai piedi smetto l'infradito di gomma. È un insieme di mélange culturali, di contaminazioni, che secondo me dà senso anche all'oggetto. Sei d'accordo? Io sono perfettamente d'accordo. Mi ricordo personalmente, quando lavoravo in Indonesia per alcuni anni, di aver visto proprio degli indigeni di questa tribù che si muovevano liberamente per la zona di Wamena con il loro astuccio penico semplicemente indosso e il cellulare all'orecchio. Va bene, abbiamo concluso. Oggi è stato divertente. Abbiamo messo insieme degli oggetti che comunque hanno senso. Ricordo l'indirizzo asta.cervelliribelli.it. Siamo pronti a ricevere i vostri oggetti. Oggi avete avuto l'idea di quello che sarà l'esito dei vostri rimasugli familiari, di quello che nemmeno pensate che abbia un valore, che noi invece valorizzeremo, la nostra grande asta dei cervelli ribelli. Alla prossima!